A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mio, e stringerò il cuscino tra le mani mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un'altra donna. Mi sento già perduta e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattiva come adesso non lo sono stata mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre stai già pensando a un'altra donna. Mi sento già perduta e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattiva come adesso non lo sono stata mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà.